Dimmi come si fa ad uscire di qua, da questo cortile della zona industriale. Siamo condannati a ringraziare queste fabbriche che ci danno 20 giorni di felicità. Se pianti un seme che diventa un grande albero, ci puoi salire e ti sembra un superattico. Si fida di me, il lavoro va bene, ma non cambia un granché. Siamo condannati a far la spesa solo al sabato, in un centro commerciale fuori città. Se pianti un seme che diventa un grande albero, puoi salire e ti sembra un superattico. In un centro commerciale fuori città. Se pianti un seme che diventa